It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la vita torna alla normalità, Drago riflette sulla crudeltà del fato. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Quale destino crudele ha investito la mia vita onesta? Che cosa ho fatto io per meritarmi di finire in una fabbrica di polli? Un luogo che è l'origine di tutti i polli che ci troviamo in mezzo ai piedi nella vita quotidiana, ma anche un luogo dove i polli stanno in attesa di una condanna a morte certa, dove il terrore regna indisturbato e la stupidità si alimenta senza sosta. Almeno prima ero in compagnia, vabbè, ero con K, sarebbe stato meglio essere qui con una bella ragazza, va bene, ma ero pur sempre con un compagno di viaggio, no? E adesso invece K dice di essere a Barcellona. Ma mi chiedo io, ma perché è andato da solo? Perché al momento di partire non mi ha chiesto se volevo andare con lui? Che cosa starà facendo in questo preciso istante K? Non starà mica cantando Sweet Home Chicago con qualcuno? Sweet Home Barcellona. Mentre io sono qui in mezzo ai polli. Hai capito, K? Sweet Home Barcellona. Sì. Avessero almeno una chitarra accordata con l'altra. Chi cazzo l'ha accordata? Beethoven? Senti, senti. Con una banda di ubriachi. Mentre io sono qui nella fabbrica di polli in sbattimento. Sweet Home Barcellona. Questa me la paghi. La fabbrica di polli! Da quando sono diventato cristiano, credente e praticante, non sono più andato troppo in sbattimento, eh? Si vede che funziona. Voi avete mai visto un papa in sbattimento? Io mai, eh? Sempre sereno il Santo Padre, sempre buono con tutti. A parte Pio XII, che, insomma, lui era un caso un po' speciale, eh? I tempi non erano certo dei migliori, E dunque non vado in sbattimento. Però continuo ad avere un po' di problemi con gli altri, E sì, che Gesù ha insegnato a tutti che bisogna aprirsi con gli altri, essere generosi e donarsi con slancio al prossimo. Ma io qui ho una trentina di fobie sociali miste, che si mettono di traverso e mi impediscono di essere un buon cristiano. Ho dei pregiudizi, io, un sacco di pregiudizi. Voi mettetemi vicino a Cocorito e poi vi faccio vedere io, In un quarto d'ora l'ho già riempito di beccate e di quelle secche anche, E i Cocoriti sono dei poli latini, quelli che hablano in spagnolo, che trovano sempre la scusa di ballare, cantare e ricordare con nostalgia un tempo lontano e forse mai esistito. Il famoso El Dorado. Ma qual è El Dorado? Ma si rendono conto che qui siamo tutti in una camera della morte grande come una fabbrica? E poi, loro sono tutti devoti, ma la loro è solo superstizione, non è una scelta ragionata e filosofica come la mia, Io sono passato da Pomponazzi a Ratzinger rimanendo razzista in modo assolutamente coerente. Tra l'altro ho qui un trattato dove spiego per filo e per segno le ragioni della mia conversione. L'ho copiato un po' dai libri di Marcello Pera, però ci sono anche dei pensieri originali, Adesso ve lo leggo. Allora, il meticciato che minaccia la nostra bella Europa, la nostra bella Italia, i nostri quartieri, i nostri cibi, che avvelena le nostre acque. Io non saprei che dire se adesso fosse giorno, e non saprei partire perché non c'è ritorno, e non saprei chi sono se si vedesse il viso. Tu penseresti male vedendo il mio sorriso. La notte ci nasconde e meno male, cela le mancanze dentro queste stanze. La notte ci nasconde e ci fa male, prendere le distanze tra noi due. You are the cattle and we are the keepers. Sì, Barcellona, Barcellona, quello figurati se è a Barcellona, sarà chiuso da qualche parte. Cosa Drago? Capo. Drago! Ma non eri a Barcellona? Certo, eh. Barcellona por la noche. Sì, vabbè, ma adesso è così di corpo brucio appare. Brucio paratie. Sì, brucio paratie. Sì, hai mai bruciato paratie? No, tu, non Drago? Ho mai bruciato una paratia, però scusa, da dove arrivi veramente? Sei abbronzato, rilassato, vabbè, stai tanto bene. Ma è inutile che me lo chiedi, tanto non ci crederai mai. Drago. Dai, di la verità, sei stato qua nascosto, hai trovato un solarium clandestino gestito da qualche oca. Ma quale solarium clandestino, Drago? Ero a Barcellona. E non c'ero solo io, c'era anche tanta gente simpatica. E tutte le sere si beveva, si faceva festa. Drago, anche tu dovresti astrarti e venire con me sulla Rambla. Una bella terrazza sui tetti di Barcellona. Il barbecue, eh? Sì, il barbecue, però anche las chicas. Il pesce alla piastra. Drago, hai fame? Beh, sì, effettivamente, non sarebbe dico, male. Las chicas. Las chicas. Il rum. Non so, è il rum, ecco, appunto, la fiesta. La fiesta, Drago, lo vedi? Ma basta immaginarsela! Ma è bellissimo Dai, qui! Dai, vieni anche tu, forza, canta con noi! Ma è vero, ma siete tutti simpaticissimi! Bellissimi! Cappa, ma che cos'è questa bellissima canzone? Prova a indovinare! Ma è bellissima! Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse. Ehi! E l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse, e la cantina buia dove noi respiravamo piano, e le tue corse, l'eco dei tuoi no. Che cosa succederà adesso? Dove sono K e Drago? Nella fabbrica o a Barcellona? E il pollo in sbattimento continuerà nel suo cammino verso il regno dei cieli? Non possiamo soddisfare la vostra curiosità adesso, ma soltanto lunedì a mezzanotte su Radio 3 con il prossimo insondabile allestimento de... La fabbrica di polli. Anche sul podcast di Radio Rai. La fabbrica di polli, un programma di K e Drago con Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Luca Gemma. La fabbrica di polli @rai.it, barlumen.com. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. Bar Lumen.